bordo campo di Dario Ricci. Diario Mondiale. Eccoli i mondiali di calcio del Brasile, sono davvero a portata di mano ormai. E allora andiamo subito a Rio de Janeiro perché vogliamo capire quanta Italia già c'è in questi mondiali, quanta ce ne sarà dopo questa grande rassegna che tra l'altro è un ponte lanciato verso il futuro, verso quelle Olimpiadi che proprio Rio ospiterà nel 2016 in una accoppiata straordinaria e a memoria credo inedita nella storia dello sport mondiale. E allora subito a Rio de Janeiro, dove troviamo Mario Panaro, console italiano a Rio de Janeiro. Benvenuto console a bordo campo. Grazie, buona giornata a tutti e mi fa piacere potervi dare un anticipo su quello a cui ci stiamo preparando, cioè il Mondiale di Calcio, uno dei grandi eventi di cui Rio è e sarà protagonista. E a fianco del console Panaro c'è Alfredo Apicella, che è delegato del CONI in Brasile. Ben trovato, dottor Apicella. Buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità che ci state dando. Allora, partiamo subito dal console Panaro. Console, le chiedo, quanta Italia c'è in questo mondiale a livello non solo calcistico, speriamo che Prandelli ce ne metta tanto di azzurro in questo mondiale, ma soprattutto per quello che sono l'impegno delle aziende italiane in questo mondiale. Si è rivelato in qualche modo l'organizzazione di questo grande evento anche un'occasione per le aziende italiane presenti in Brasile o sul mercato brasiliano? Sì, ma in misura limitata, perché si è trattato di riformare soprattutto 12 stadi diffusi in buona parte del territorio brasiliano e si è trattato di forniture affidate in buona parte ad imprese brasiliane. Però detto questo, credo che siamo stati dei subfornitori di un certo rilievo e saremo degli spettatori importanti, perché dobbiamo partire da un dato di fatto: il Brasile è il paese che ospita la maggior colonia di oriundi, cioè di brasiliani di origine italiana nel mondo. Parliamo di 25 milioni di persone, i cui ascendenti sono degli italiani arrivati in Brasile a partire dalla seconda metà del secolo XIX fino al secondo dopoguerra. Un altro dato importante è che l'allenatore della nazionale brasiliana ha anche il passaporto italiano. Eh sì, Felipao Scolari. È quasi veneto. È di origine veneta e io ho avuto il privilegio di consegnargli il passaporto italiano nel lontano ormai 2005, quindi direi che è una presenza importante insieme a quella di alcuni giocatori della nazionale brasiliana che giocano in Italia, quindi abbiamo anche questa direi questo contributo indiretto alla loro formazione che ci permette speriamo di non aver esagerato nel formarli, mio caro console, perché questi qua poi sono forti, hanno fatto tanta esperienza da noi e magari poi ci batteranno pure, staremo a vedere. Già l'hanno fatta la Confederations Cup, sarebbe bello che toccasse a noi la rivincita, ma questo lasciamolo dire al campo. Ecco, ancora console, le dico, Italia presente in questo mondiale sotto tanti aspetti, anche attraverso dei progetti culturali molto importanti mirati proprio per mettere in luce quelle che sono le bellezze del nostro paese su un mercato potenzialmente molto ampio di turisti, vero? So che sono stati sviluppati dei progetti ad hoc per mettere in rilievo la centralità dell'Italia in questo mondiale. Sì, infatti abbiamo voluto utilizzare questa grande vetrina che sarà il mondiale per preparare circa un centinaio di eventi promozionali in senso lato che toccano vari settori, dalla cultura all'economia, all'inclusione sociale e dalla formazione, perché riteniamo che sia il miglior modo per continuare a promuovere l'immagine e la conoscenza dell'Italia, ma anche la conoscenza del Brasile da parte dei nostri connazionali. Quindi direi che siamo impegnati in questa operazione che è cominciata ad aprile e in pratica andrà avanti fino all'inizio del mondiale, per avere una piccola appendice anche durante, ma che è diffusa in molte città brasiliane. Rio, insieme a San Paolo, è una delle principali protagoniste di questa operazione. Si può trovare il calendario di questi eventi in un sito internet che si chiama www.italianacoppa.com. Alfredo Apicella, parliamo dal punto di vista più strettamente organizzativo, sportivo. Ce la fa questo Brasile con questi mondiali? Qui dall'altra parte dell'oceano, qui in Italia, siamo parecchio preoccupati, ci arrivano notizie allarmate e allarmanti rispetto all'organizzazione. Sul campo qual è la sensazione da uomo di sport, per quello che è anche il suo ruolo centrale nell'organigramma CONI in Brasile? Dalla esperienza di 27 anni di Brasile, di cui 22 di CONI, posso dire che i brasiliani risolvono sempre magicamente all'ultimo, al last minute. Sono di una capacità incredibile nel risolvere le situazioni sul filo della rana di un rasoio. Quindi speriamo e mi auguro che tutto quello che oggi ci sembra ancora incompleto possa brevemente, nei tempi più stretti possibili, poter portare a compimento. Certo, il Brasile si aspetta molto da questa Coppa e i brasiliani danno già per scontato la loro vittoria, come al solito, anche attraverso le parole della presidentessa del Brasile, che in un'occasione disse: noi vinceremo, saremo ancora campioni. Per cui io vedo questo grande impegno e spero veramente che possa riuscire in breve tempo a sanare queste lacune che purtroppo sono diciamo di una certa urgenza. Sì, insomma, è ora di mettere il turbo per arrivare. Sì, questo turbo brasiliano che c'ha il gettino, come si dice qui, troveranno il modo per garantire. Come si dice Alfredo? Come si dice Alfredo, come dicono i brasiliani? Il gettino brasileiro. Ah, ho capito. Il gettino brasileiro. Quindi l'ultima ora. Ah, quindi proprio lo sprint dell'ultima così, ora. Non è che siamo tranquilli su questo aspetto qui, perché realmente ci sono cose che poi richiedono dei tempi, però siamo ben fiduciosi che il tutto possa andare nel migliore dei modi e sempre risolversi magicamente alla fine ed essere uno spettacolo degno di questo paese che nel football realmente è come dicono qui, football è passion nazionale, una passione nazionale. Non c'è bisogno neanche di tradurlo. Ecco Alfredo, le chiedo ancora, ma preoccupazioni che si riverberano anche sull'organizzazione delle Olimpiadi, nei mesi scorsi il CIO è stato parecchio critico e quasi si ipotizza che poi queste Olimpiadi di Rio 2016 non è detto che rimangano a Rio, lei che è ancora più sul campo per quanto riguarda l'aspetto dell'organizzazione della spedizione azzurra, che sensazione ha dal Rio? Diciamo che una prima prova è stata la Coppa delle Confederazioni, che è andata, diciamo, è stato un primo tassello che hanno messo in questo mosaico, perché il Brasile, come lei sa, avrà 4 eventi grandissimi. Non è mai successo che una nazione abbia avuto tutti questi eventi. Poi il secondo sarà la Coppa del Mondo, sicuramente sarà la prova del 9, che potrà determinare le linee direttrici per alcune scelte occupate che realmente vanno pensate, in quanto il ritardo su delle strutture va rivista e va fatta naturalmente secondo le linee del CIO, che è molto severo, che lei sa che impone delle regole più drastiche che la stessa FIFA. Per cui speriamo, ci auguriamo bene, perché la città sta vivendo questo momento delle Olimpiadi come l'apogeo del loro amore per lo sport, e mi auguro proprio che ce la facciano di cuore, perché veramente vibra tutto il paese. E Rio de Janeiro ospiterà, mi auguro, con grandiosità queste Olimpiadi. Beh, è quello che ci auguriamo tutti, e soprattutto di essere a Rio de Janeiro fino all'atto finale. Speriamo che i ragazzi di Prandelli ci regalino questo sogno. Allora, intanto un grazie ad Alfredo Apicella, delegato CONI per il Brasile, e al console italiano a Rio de Janeiro, Mario Panaro, per essere stati i nostri ospiti, e il grande in bocca al lupo. Beh, console, ce lo dica in brasiliano, come si dice buon mondiale in portoghese? Io direi boa sorte, che significa buona fortuna. Allora, buona fortuna a voi e soprattutto agli azzurri di Prandelli. L'appuntamento a metà luglio sarebbe l'ideale darselo al Maracanà, ma non vogliamo dire niente. Intanto boa sorte e grazie per essere stati oggi i nostri ospiti qui a Radio 24. Grazie a voi e alla prossima. Grazie, grazie Dario, e veramente a nome di tutta la nostra comunità ringraziamo questo collegamento e l'opportunità dataci. Un abbraccio. A bordo campo. Diario Mondiale. Per quanto riguarda i giocatori, abbiamo deciso di lasciare la massima libertà a tutti di esprimersi, e quindi avranno anche durante il Mondiale la possibilità di rapportarsi con i tifosi e con chi ovviamente vogliono mandare i messaggi con la massima libertà. E allora, l'avete sentito, Cesare Prandelli non ha imposto un regolamento anti-social network per i suoi azzurri ai mondiali, ma tenterà di dialogare, di educare, di educarsi all'uso dei social network. Tema quanto mai vivo. Beh, ci sono dei calciatori che ai loro in questi mondiali di Brasile il problema di doversi regolare nell'uso dei social network non lo hanno proprio, e di questi grandi esclusi oggi parliamo con un amico di Radio 24 e di A Bordo Campo, Andrea Barchesi, amministratore delegato di Reputation Manager. Ben ritrovato, Andrea. Grazie, buon pomeriggio. Allora Andrea, come dicevamo, grandi esclusi, ne abbiamo scelti qualcuno, no? Per provare a individuare il modo in cui si stanno comportando da quando i loro CT l'hanno esclusi di fatto dalla corsa al mondiale. Partiamo da forse l'escluso più eccellente, Carlitos Tevez, no? Un po' un mistero come l'Argentina possa fare a meno della Paci, vediamo un po' come se la caverà l'Albi Celeste. Ecco, per quanto riguarda i suoi comportamenti su Twitter, Facebook e sui vari social network, come l'ha presa Carlitos questa esclusione? Ma Tevez non l'ha presa esattamente bene, diciamo, non l'ha presa sportivamente. Praticamente afferma che, con un discreto rammarico, chi si illude che il suo ciclo, il suo cerchio vitale dal punto di vista calcistico sia terminato, commette un grande errore, quindi manifesta un forte risentimento, arriva direttamente alla pancia del pubblico, e il pubblico stesso ha reagito in modo molto forte, avendo circa 31.100 retweet. Insomma, quindi vuol dire che c'è una bella torsida a sostenerlo, no Carlitos? Assolutamente sì, il suo profilo è fortissimo, ha circa 569.000 follower, quasi mezzo milione, di conseguenza quindi la sua lamentela arriva diretta ad una, diciamo, ad una nazione. Poi insomma ci vuole un bel coraggio a dire che Tevez sia finito, malgrado questa esclusione che sicuramente è dolorosa per lo juventino. Allora dalla Juventus passiamo alla Roma, perché nel Belgio, che si candida ad essere una delle sorprese di questo mondiale brasiliano, c'è un escluso eccellente, che è quel Raja Nainggolan, che è arrivato a metà stagione dal Cagliari alla Roma, è stato uno dei protagonisti di questa seconda fase del campionato, non abbastanza da convincere il CT Wilmots a convocarlo. Nainggolan come l'ha presa? Lo conosciamo, abbastanza focoso anche sui social network. Stavolta come ha reagito Andrea? Diciamo che si è contenuto rispetto al suo potenziale caratteriale. Ha praticamente affermato che, vista la mancata convocazione, il mondiale sarà la Champions League l'anno prossimo con la Roma. Qui effettivamente avrebbe bisogno di un po' di education, nel senso che in generale assieme ad altri sono girati commenti non riferibili direttamente a lui, dicendo che non tutti quelli che ovviamente non vengono convocati giocheranno poi la Champions. Apposta, certo, sicuramente insomma anche la Champions sarà un banco di prova e non può darla per scontata in angolare, ma quantomeno ha rilanciato un po' la sfida in modo abbastanza elegante, no? Sì, è stato costruttivo ed è stato anche premiato, ha ricevuto 1320 retweet, quindi 1320 persone hanno considerato valido ciò che è stato detto e l'hanno rilanciato a tutti i loro utenti. Beh, ecco, un numero interessante, ma ricordiamo i 31.100 di Tevez, che vetta pressoché irraggiungibile. Oh, altro grande escluso, e forse qui fa ancora più male, trattandosi di uno dei grandi campioni del calcio brasiliano, è il milanista Kakà, no? Che anzi era sbarcato al Milan proprio con l'obiettivo di conquistarlo, di riconquistarlo questo mondiale, missione fallita. Ecco, il milanista come si è mosso sui social? Come si muove, anzi? Ma è stato molto sportivo, nel senso ha mandato delle sue immagini, coniugando quindi sia il social network con le immagini, con Instagram, e mettendo delle sue foto in allenamento. La notizia era stata molto ripresa in totale da 34.000 mention. Ah, ricordiamo, caspita, sempre Tevez, che aveva ottenuto sia 31.000 retweet ma anche 69.000 mention questa notizia, quindi siamo a quasi il doppio. Detto questo, Kakà ha mandato sportivamente le foto dicendo: mi tengo in allenamento per le prossime battaglie. Eh sì, quindi lui in effetti è una sua abitudine, si è divertito un po' di più con Instagram, no, rispetto agli altri social. Sì, è completo, diciamo, come interazione. Quindi questa volta ci sono le foto in cui si vede Kakà che si allena per un futuro che dovrebbe essere ancora milanista e chissà mai, ancora con la nazionale verde oro. No, non è detto che sia un capitolo chiuso, anche se insomma questa esclusione lascia il segno. Assolutamente, lascia il segno. Ha avuto però solo 395 retweet. Solamente 305, vero? Questo insegna che parlare alla pancia dà maggiore energia ed enfasi al messaggio stesso. Quindi insomma, diciamo, una lezione che stiamo un po' imparando, appunto, come la sottolinei giustamente tu da queste nostre chiacchierate, è che comunque il social non può essere troppo elegante, troppo patinato, deve parlare all'umore primario, no? Del tifoso, dell'audience. Esatto, deve adeguarsi al tifoso stesso, quindi deve usare nei giusti limiti il giusto registro per entrare in sintonia con lui. E quindi ecco, queste fotografie di Kakà strappano l'applauso degli addetti ai lavori, perché c'è l'immagine abituale di un Kakà impegnato a risalire la china verso nuovi obiettivi, ma insomma tutto sommato i tifosi rimangono freddini. Quel che conta è che in Brasile non ci sarà, ecco, dal punto di vista del tifoso. Non ha chiamato in causa né la squadra né un match, ma chiamato un qualcosa di astratto. Certo, il lavoro del calciatore, neanche legandolo alla maglia del Milan o della nazionale, perché vedo le foto con una maglietta neutra, insomma. Esatto, questo insegna come il registro comunicativo deve essere completo. Senti, molto più pepata è stata invece la discussione che si è aperta intorno all'esclusione di Mimmo Criscito dalla nazionale azzurra, perché c'è stato anche uno scambio di battute, questa volta non sui social, no, ma attraverso media più tradizionali, con Prandelli che prima ha detto: non ho certo escluso Cabrini o Maldini, no, in modo piuttosto inelegante, e poi si è anche scusato nei confronti del giocatore per questa immagine sicuramente infelice. Tramite i social però pure Mimmo non è che ci è andato leggero. Sì, tutto si è scatenato proprio partendo dai social, ormai l'informazione è estremamente più rapida. Non ha nascosto il dispiacere, dice esattamente: non nascondo il mio dispiacere, ci sono rimasto, e qui usa, diciamo, una figura retorica poco elegante, adesso che due anni fa, più adesso che due anni fa all'europeo, grazie a tutti per il sostegno. Questo ha aperto una polemica. All'europeo, ricordiamolo, Criscito era stato escluso proprio all'ultimo istante, ma per una vicenda che legata a Calciopoli, che l'aveva tirato fuori veramente dal ritiro di Coverciano, erano andati i carabinieri a prenderlo, quindi paragonare quel dispiacere a quello vissuto oggi dà anche un ordine di grandezza, no? ed è anche un autogol reputazionale, perché dà ancora una volta una notizia spiacevole per la sua immagine, per il suo sponsor e insomma anche per la squadra. Eh sì, anch'io sono rimasto sorpreso, perché tutto sommato quella vicenda si è chiusa bene per Criscito, che poi è uscito da quella situazione. Non era forse questa l'occasione migliore per rievocarla, perché ci siamo tutti chiesti ma perché, che cosa era successo? E quindi qui torniamo ancora una volta al discorso per cui andrebbero guidati maggiormente nella loro comunicazione, per evitare degli autoinfortuni, diciamo. Ecco, alla luce della tua esperienza, perché questo è il lavoro che fate con Reputation Manager, che mondiale ti aspetti? Perché vale di più chi ha scelto un regolamento stringente per la gestione dei social, oppure va bene e potrebbe averla meglio la linea Prandelli, chiamiamola così, di un ragionevole compromesso, di un dialogo aperto con la squadra e con i giocatori? Dipende dal grado di intelligenza e dalla maturità dei calciatori stessi. Come abbiamo già imparato da vari casi tipo Ballottelli e così via, ci sono dei valori con cui possiamo discutere e così via, altri su cui non possiamo assolutamente sbagliare. Quindi in realtà la scelta giusta è ovviamente quella di una regolamentazione basale, però serve sempre un certo calore, come abbiamo visto anche in questo caso, e questo calore non può essere troppo circoscritto, serve però l'intelligenza. Insomma, questa è un'altra grande sfida. Da questo punto di vista, secondo te quale potrebbe essere il primo campione di tutto il mondiale, non solo tra gli azzurri, a finire in fuorigioco su Facebook o su Twitter durante la manifestazione? Dai, sbilanciati un po'. Ma temo lo stesso Balotelli, per il suo carattere abbastanza esuberante. Allora Andrea Barchesi, direi che sicuramente ci andremo a risentire comunque, ma probabilmente potrebbe essere proprio Super Mario il motivo per cui scatterà un'altra telefonata verso il tuo cellulare da bordo campo, quindi mi raccomando, è sempre pieno campo per la ricezione. Sempre pronti. Andrea Barchesi, amministratore delegato di Reputation Manager, grazie per averci accompagnato verso Brasile 2014, buon mondiale e si può dire Forza Azzurri, sì, lo scriverai sui tuoi profili Facebook? Assolutamente sì. Per A Bordo Campo Diario Mondiale è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito radio24.it, scaricare il podcast di A Bordo Campo Diario Mondiale e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, ritorniamo domenica prossima però sempre alle 16.30 per raccontarvi il Brasile dei campionati del mondo di calcio. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.